Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Mada sonna koto udatteru no? Dame de sho? Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la numero 454. Restiamo Animali è una trasmissione che propone di pensare, vivere e agire in modo non violento, nel rispetto di tutti gli esseri viventi. Apriamo questa puntata dedicando un pensiero ai capodogli, alle balenottere, agli altri animali marini, la cui salute e la cui vita sono messe a rischio dall'incredibile incidente avvenuto nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo, a ovest di Capo Corso, con la collisione di due navi mercantili, una tunisina, l'altra cipriota. Le due navi hanno perso molto carburante e una macchia nera si è formata in una zona inclusa nel cosiddetto santuario dei cetacei, un'area compresa fra la Provenza, la Corsica, la Toscana, la Liguria, la Sardegna, teoricamente protetta per preservare le migliori condizioni di vita possibili per i cetacei che vi abitano. L'incidente è avvenuto nonostante vi fossero condizioni di navigazione e di visibilità ideali e perciò lascia allibiti. Greenpeace, in un suo comunicato, punta il dito sulla natura più teorica che reale della protezione prevista per il santuario e ricorda il precedente dell'affondamento della nave Concordia vicino all'isola del Giglio. Dopo il disastro, in quel caso fu introdotta la normativa detta anti-inchini per vietare quella assurda manovra di avvicinamento alla costa compiuta al fine di salutare in qualche modo l'isola e mostrarla più da vicino ai passeggeri. Una manovra che portò al naufragio della nave e alla morte di decine di persone. Il santuario dei cetacei, dice Greenpeace, doveva essere l'occasione per garantire regole e innovazione anche per i trasporti marittimi. Ci auguriamo, dice Greenpeace, che questo nuovo incidente non si riveli l'ennesimo disastro ambientale prevedibile. Introdurre norme precise sulla protezione e sulla tutela del santuario dei cetacei, conclude l'associazione, è una scelta non più rinviabile. Vedremo che esito avrà questo appello, ma di certo l'episodio dei giorni scorsi dimostra ancora una volta quanto poco contino nelle politiche pubbliche le esigenze vitali dell'ambiente naturale e degli animali selvatici, sacrificati con disinvoltura e indifferenza alle regole di un'economia sempre più rapace e che pretende, con un certo successo, una sfrenata deregulation. È la maledizione del nostro tempo. La geologica nella quale viviamo è stata ribattezzata in questi anni Antropocene, per indicare quanto sia pesante, incisivo e decisivo l'intervento della specie umana sull'ambiente. un intervento scolpito letteralmente nella pietra, ossia depositato negli strati della crosta terrestre, tanto che in futuro chi abiterà il pianeta, se ancora qualcuno lo abiterà, potrà rilevare questi segni come tipici della nostra fase storica. Sappiamo da tempo che il pianeta è vicino al collasso ecologico, ma nei giorni scorsi gli scienziati di tutto il mondo, riuniti nell'IPCC, la Commissione Intergovernativa di Studio sui Cambiamenti Climatici, ha ribadito il concetto, pubblicando un nuovo rapporto dai contenuti drammatici. In sostanza, gli scienziati, che furono premiati nel 2007 col Nobel per la pace, dicono che gli effetti negativi del riscaldamento globale sono più veloci e più pesanti del previsto, per cui occorre urgentemente agire per abbassare a 1,5 gradi centigradi il tetto massimo di aumento della temperatura media mondiale. L'accordo sul clima di Parigi del 2015 indicava un tetto di 2 gradi, auspicando che fosse ridotto a 1,5. In realtà gli impegni presi a Parigi per raggiungere quegli obiettivi sono stati pressoché tutti disattesi in questi anni, e quindi gli scienziati affermano che di questo passo il tetto dell'1,5% sarebbe superato nell'arco di appena una dozzina di anni, nel 2030, per poi arrivare anche al 3% alla fine del secolo. Gli effetti sarebbero devastanti: desertificazione di ampie zone del pianeta, scioglimento dei ghiacci perenni, scomparsa di isole e tratti di costa e così via. Gli scienziati dell'IPCC dicono che le emissioni globali con effetto serra dovrebbero essere dimezzate entro il 2030 e azzerate entro il 2050, attraverso alcune misure, in larga parte già indicate negli accordi di Parigi, come il drastico taglio nell'utilizzo dei combustibili fossili e la rimozione della anidride carbonica. Si tratterebbe cioè di investire sui veicoli elettrici nel campo dei trasporti, nelle energie rinnovabili e di incentivare le tecniche ancora embrionali di stoccaggio del carbonio. Nel piano sottoscritto a Parigi figurano anche misure care a chi, come noi, sta sviluppando un punto di vista allargato, non antropocentrico, sui problemi del mondo, ossia la forte riduzione dei consumi di proteine animali per l'alimentazione umana e la riforestazione di ampi territori sfruttati e desertificati nei decenni scorsi per le attività produttive. Quanto sia grande il contributo della zootecnia all'effetto serra è ancora oggetto di discussione, ma l'impatto è comunque fortissimo, visto che le stime, a seconda degli studi, variano fra il 14,5 e il 51%. Sono studi che considerano l'intero ciclo, dalla produzione dei mangimi alla fermentazione enterica e alle conseguenti emissioni di gas da parte di milioni di animali chiusi negli allevamenti, alla trasformazione dei terreni, al trasporto degli animali e alla lavorazione dei loro corpi una volta uccisi. Si calcola che se l'intera umanità scegliesse un'alimentazione a base vegetale, le emissioni di gas legate al cibo calerebbero del 70%. Si tratta naturalmente di pure ipotesi di scuola, perché simili trasformazioni, quelle legate all'alimentazione ma anche le altre riguardanti il trasporto, il riscaldamento, la produzione di energia, implicano scontri di potere così forti con filiere produttive così radicate che sarebbero possibili solo in presenza di una svolta radicale di tipo etico e soprattutto politico. È una svolta urgente e vitale, ma tutta da costruire. Sotto questo profilo si può comprendere anche qual è il senso di una piccola trasmissione come la nostra, che in fin dei conti si prefigge di mettere un mattoncino di consapevolezza, di conoscenza, di pensiero alla costruzione di questo nuovo punto di vista. Si tratterebbe di una specie di rivoluzione rispetto alle tradizioni culturali che ereditiamo dal passato, ma probabilmente è la sola prospettiva, almeno sul piano potenziale, capace di futuro. Ed è quello che pensano, in fondo, anche gli scienziati dell'IPCC, per quanto lo dicano solo fra le righe. don't find the next little boy. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh. Una buona notizia arriva da Bruxelles. Il commissario europeo all'ambiente, Carmen Uvella, ha ufficialmente comunicato che la direttiva Habitat non si tocca e che quindi i lupi continueranno ad essere animali protetti in tutta l'Unione. Carmen Uvella ha specificato l'integrità della direttiva Habitat in risposta all'interrogazione della capogruppo leghista al Parlamento europeo Mara Bizzotto, la quale chiedeva la modifica della direttiva in modo da poter ammettere l'abbattimento di lupi, così come richiesto in Italia da alcune regioni. L'intento della Bizzotto era anche quello di aggirare in qualche modo il no opposto dal ministro dell'Ambiente Costa. Massimo Vitturi, responsabile per la LAV del settore animali selvatici, ha commentato questa notizia sostenendo che si tratta di un definitivo stop a tutti coloro che ancora si ostinano a voler uccidere i lupi. Costoro non comprendono che solo l'attivazione delle opere di prevenzione non cruenta rappresenta la soluzione a tutte le problematiche legate alla presenza delle attività umane sui territori frequentati dai lupi. Nelle settimane scorse, aggiungiamo, si erano distinte per l'intraprendenza e per la ricerca di un varco nelle normative che attualmente vietano l'abbattimento dei lupi alcune regioni, come il Veneto e la Toscana, e le province autonome di Trento e Bolzano, che avevano compiuto passi concreti in questa direzione. Secondo la LAV, ora questi soggetti, queste regioni, queste province, devono prendere atto della sconfitta e mettersi a lavorare seriamente sui mezzi di prevenzione e sull'approvazione del piano lupo nella sua integrità, senza alcuna possibilità di uccidere questi animali. Abbiamo parlato nella scorsa puntata dell'uccisione in provincia di Imperia di un giovane di 19 anni da parte di un cacciatore durante una battuta di caccia al cinghiale. Il ministro dell'Ambiente Costa, a caldo, ha proposto di chiudere la caccia la domenica, ricevendo però una serie di secchi no dai responsabili delle varie regioni, tutti allineati nel garantire gli interessi della potente lobby elettorale dei cacciatori. Una lobby molto scaltra, capace di sostenere indifferentemente destra o sinistra, a seconda di chi comanda in questa o quella regione. La LAV e altri gruppi animalisti vorrebbero andare anche più in là di Costa e chiudere la caccia sia il sabato sia la domenica, in nome della sicurezza dei cittadini, sperando di trovare alleati per un'eventuale campagna nel mondo ambientalista e fra la gente che ama l'escursione in libertà e che abita in campagna e montagna. È una discussione aperta, nella quale si inserisce, ecco la notizia, il sindaco di Carpignano Sesia, un comune in provincia di Novara. Questo sindaco ribalta il senso del discorso e chiede a chi frequenta i boschi di rendersi riconoscibile, in modo da ridurre così il rischio di incidenti. Incidenti ovviamente che sarebbero i colpi di fucile sparati contro le persone dei cacciatori. Secondo Giuseppe Maio, farmacista e appunto sindaco di Carpignano Sesia, nonché cacciatore gli stesso, chi va nei boschi dovrebbe indossare giubbini fosforescenti o bretelle retroriflettenti. La presenza dei cacciatori nei boschi e la conseguente possibilità di essere impallinati, secondo questa impostazione, devono quindi essere accettati come uno stato di natura e quindi entrare nel bosco corrisponde a prendersi il rischio di essere impallinati. La sensazione a questo punto è che il tema della caccia stia superando i consueti confini della contrapposizione fra cacciatori e animalisti per entrare a pieno titolo anche sul terreno della sicurezza e del diritto alla propria incolumità nel frequentare aree pubbliche. E chissà che il fronte anticaccia non si allarghi e non riesca a imporre il tema della libertà di vivere nei boschi nell'agenda politica. guardando gli argomenti della puntata, si è subito insinuato un tarlo, o meglio, un pesce cane. E quindi alla parola bastardo mi è venuto in mente questo personaggio dall'opera Da Tre Soldi, che è stato interpretato da personaggi del mondo del rock che rifanno Kurt Weill. La versione che ho scelto io è interpretata da un grande Nick Cave, ci fa sentire questo Mac the Knife. Buon ascolto. Now see the shark, how red his fins are, as he slashes at his prey. Oh, Mac the Knife wears fancy gloves, which give the minimum away. By the Thames, turbid waters, men abruptly tumble down. Well, is it plague or is it cholera? Or because Mac eats in town? Yeah. Shining sky blue Sunday, see a carp stretched in the strand. We'll see a man dodge round the corner. Maggie's friends will understand. And Schumacher, posted missing, well, like so many, well, wealthy. Box. God knows how and God knows when. Oh, Jenny Towler turned up lately with a knife stuck through her breast. While McKean walks the embankment nonchalantly unimpressed. Where is Alphonse? Delete the cabman. While who can get that story clear? While someone may lay information, but McHeath has no È nota a tutti la battuta di Albert Einstein all'ufficio di frontiera degli Stati Uniti quando gli fu chiesto di specificare nell'apposito modulo di immigrazione a quale razza appartenesse. Il grande fisico ebreo in fuga dalla Germania nazista scrisse «razza umana». Come dire che le razze all'interno dell'umanità non esistono, per quanto vi siano innumerevoli varianti nei gruppi umani per aspetti esteriori, come il colore della pelle, il taglio degli occhi, l'altezza, la forma dei capelli e così via. Ma che succede quando parliamo di altri animali, ad esempio di cani e gatti? Perché non applicare anche a loro lo stesso criterio di Einstein? Insomma, che cosa sono i cosiddetti animali di razza? Se lo è chiesto Massimo Raviola, veterinario, autore del libro Che razza di bastardo. Lo ha intervistato per noi Elisa Moretti. Massimo Raviola, autore del libro Che razza di bastardo, parla di maltrattamento razziale genetico degli animali, in particolare ovviamente cani e gatti, animali da compagnia. Cosa si intende per maltrattamento genetico? Si intende proprio il discorso della selezione delle razze, che in natura non esistono. non esisterebbero proprio, sono state inventate dall'uomo, che ha forzato la selezione facendo incrociare animali sempre più vicini geneticamente per avere delle razze, ovvero dei cani esteticamente che ci piacciono. Questo purtroppo porta fuori tantissime malattie, tantissime tare genetiche, e quindi noi stiamo creando proprio animali malati, ma che ci piacciono. Fondamentalmente il maltrattamento è questo. Risulta abbastanza particolare vedere come, rispetto a tanti altri animali, proprio i cani siano di tutti i tipi, cioè dal piccolissimo al grande, mentre per dire un piccione è sempre un piccione, un cavallo è vero, magari ci sono cavalli da tiro, cavalli da guerra, cavalli da trasporto, però più o meno sono molto simili. Come mai proprio il cane? Il cane è proprio l'esempio classico, perché fondamentalmente è il primo animale che ha accompagnato l'uomo, praticamente si è evoluto con l'uomo si è evoluto col cane, quindi è stato l'animale che più è stato vicino a noi e quindi sul quale abbiamo lavorato di più. Inizialmente la selezione è stata per avere animali da lavoro, quindi si sono selezionati quelli che avevano più istinto da caccia e si sono fatti incrociare tra di loro in modo da avere cani da caccia, oppure cani da guardia, si facevano incrociare cani che avevano più istinto da guardia. È iniziato così. Il problema è che poi a lungo andare, soprattutto nell'ultimo secolo e mezzo, si è andato solo sull'estetica e si sono cercati gli eccessi, andando dal cane che pesa 800 grammi al cane che pesa più di 100 kg, che è un'assurdità, perché in natura il cane, se avesse fatto la sua strada per conto suo, sarebbe un animale tra i 15 e i 20 kg, tutti i cani del mondo. Senza entrare troppo nello specifico, ma magari non tutti ci pensano, facciamo un paio di esempi di problemi che i cani hanno per la loro selezione genetica. Il più classico che si può vedere è dei cosiddetti brachicefali, ad esempio tipo il bulldog, il carlino, il bulldog francese. Sono cani che vengono selezionati perché abbiano una malformazione, che è il muso schiacciato. Che a noi piace tanto, però dal punto di vista medico è una grave malformazione, si chiama condrodistrofia. Noi la selezioniamo, quindi selezioniamo gli animali perché siano malati, e sono malati, però lo facciamo perché ci piacciono così. È un po' creare dei mostri giusto per il nostro piacere estetico. Partendo dal presupposto che ormai le razze ci sono, che idea si potrebbe proporre per, non so, limitare questo tipo di maltrattamento? La mia idea ovviamente è che impedire la selezione non è possibile, non lo trovo neanche corretto, l'uomo l'ha sempre fatto. Bisognerebbe tornare a un concetto di selezione rispettosa anche dell'animale, perché comunque dobbiamo ricordarci appunto che il cane ci ha accompagnato dall'inizio della nostra storia, quindi un minimo di rispetto dobbiamo avercelo. Dobbiamo selezionarlo, selezioniamolo funzionalmente. Ci interessano cani da guardia, selezioniamo cani da guardia, non la razza che abbia quella forma. Perché così evitiamo di incrociare animali con corredi genetici molto vicini, perché fondamentalmente quello che si fa per avere cani tutti uguali è si devono incrociare dei parenti stretti. Invece selezionando, incrociando animali con la stessa indole ma diversi l'uno dall'altro, sicuramente avremo un abbassamento drastico di tutte queste patologie. Comprare un cane o adottarlo in canile? Il cane non si compra, il cane si adotta. Il cane è un affetto, è un componente della famiglia. Io non comprerei mai un figlio, al limite lo adotto. Il cane si adotta perché è un individuo che entra nella famiglia, a far parte della famiglia. Quindi per me non esiste il concetto di comprare un cane, perché compro la macchina, compro il cellulare, non il cane. Grazie a Massimo Raviola, autore del libro Che razza di bastardo. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama. bastardi, anche il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che ha preparato per noi una ricetta ispirata all'intervista di Elisa Moretti con Massimo Raviola. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. È proprio vero, in cucina si può toccare qualsiasi argomento. Parliamo di bastardi? Tema difficile da abbinare ad una ricetta. Niente di più facile, invece. Ecco in soccorso del vostro povero tosco vegan chef la salsa bastarda, una crema molto simile ad una olandese, ma di semplicissima realizzazione, ottima per accompagnare verdure cotte o crude. Gli ingredienti per 4 persone per la salsa bastarda sono 2 cucchiaini di succo di limone, 40 g di farina, 50 ml di olio extravergine di oliva, mezzo litro di brodo vegetale, un cucchiaio di farina di ceci, sale e pepe. Casseruola, mescolate 40 ml di olio extravergine e la farina, sale e pepe e fate tostare per qualche minuto. Con l'aiuto di una frusta aggiungete il brodo vegetale caldo, mescolando affinché non si formino grumi, e fate cuocere a fuoco lento per circa 10 minuti. A parte, stemperate la farina di ceci con i rimanenti 10 ml di olio extravergine e versate il composto nella salsa. Fate cuocere ancora un minuto, quindi togliete dal fuoco. Unite il succo di limone e mescolate bene per renderla vellutata. Potete utilizzarla calda o tiepida per accompagnare verdure al vapore, oppure fredda assieme a delle crudite. Che alla realizzazione di questa puntata hanno collaborato Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.